programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E visto che dobbiamo iniziare sempre in modo frizzante, allegro, vivace, diamoci subito una bella notizia così, proprio il primo impatto, bolletta boom mai così cara in Italia, giusto per tirarsi un po' su, no? Appena iniziamo, una buona notizia della giornata è questa: le famiglie costa quasi 2.500 euro l'anno, la Confartigianato calcola che a settembre il caro energia ha toccato la cifra record di 61,9 miliardi, per carità, non ognuno paga questa cifra, pari al 3,91% sul PIL, a far esplodere il costo energetico, aumentato quindi del 26,5% negli ultimi 12 mesi, ha contribuito l'aumento del prezzo del petrolio. Ve ne accorgete anche quando andate alla pompa di benzina. Insomma, tra le belle notizie c'è anche questo della bolletta boom che aumenta. Ma qual è secondo voi la notizia della settimana? Infatti anche in questi giorni sono moltissimi, dall'Europa in crisi nera a paesi come l'Egitto e come la Siria in pieno incendio. Forse in Egitto si può sperare che con la nomina del nuovo primo ministro forse le acque si possano quantomeno un po' calmare. Poi ci saranno le elezioni, che in Marocco invece ci sono state ieri, ha votato quasi il 50% della popolazione, mentre in Siria continuano gli assassini, continua la repressione durissima, sanguinosa, eccetera. Questo per quanto riguarda quindi lo scenario internazionale. Più vicino a noi invece abbiamo detto l'Europa, anche se Monti, presidente del Consiglio, è lanciato in questa missione europea, qualcuno già lo rimprovera di andare un po' troppo lentamente, un po' troppo tecnicamente, e invece di doversi fare, come diceva Galli della Loggia ieri sul Corriere, mi sembra nell'editoriale, doversi fare più un'immagine politica a questo governo, cominciare a fare politica. Voi che ne pensate? A poca distanza, diciamo, giustamente dall'insediamento di questo nuovo governo, che impressione ne avete dopo quella iniziale? Anche secondo voi le cose stanno andando un po' a rilento, oppure bisogna dare un po' più di tempo a questo nuovo governo? 800 24 00 24 è il numero verde per chiamare, per raccontare qual è secondo voi la notizia della settimana e commentarla naturalmente con le vostre libere opinioni. Ripeto, 800 24 00 24. Ma qual è secondo voi la notizia che questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Questo lo sappiamo, ma il fatto che ce lo conferma questa settimana è che Umberto Bossi, che cosa ha fatto per la prima volta da non so quanti anni a questa parte, ha declinato l'invito dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi a cena. Sapete che era un loro rito questo, fisso da tanti anni, lunedì sera a cena insieme da Berlusconi. Allora qualcuno comincia a dire, allora effettivamente questa alleanza della maggioranza, dell'ex maggioranza, sta andando un po' a rotoli. Invece perché non chiedersi magari questa volta a Bossi, diciamo, non piaceva il menù, come ha detto in questi giorni, il governo fa schifo, quello nuovo, forse gli faceva schifo anche il menù, magari invece della cassola, che è tipico piatto lombardo, gli è stato offerto, che so, un branzino in crosta con lamponi, e magari evidentemente ha declinato perché, diciamo, non ha gradito il menù presente per lunedì sera. Quali sono le vostre opinioni anche su cosa sta succedendo nella maggioranza? Avete sentito ieri, c'è stato un po' questo, diciamo, incidente diplomatico, un po' più forse di un incidente diplomatico, in cui Bossi diceva Berlusconi si è dovuto dimettere perché era sotto scacco per le sue aziende, l'hanno ricattato, potevano succedere delle cose alle sue aziende, essere messe un po' in difficoltà, mentre poi Berlusconi ha replicato, insomma, piuttosto contrariato, ha detto no, io l'ho fatto per un gesto di responsabilità nei confronti del paese. Secondo voi perché Berlusconi si è dimesso? Per la cosa che dice Bossi, o perché l'ha detto per quello che invece ha detto Berlusconi, un atto di responsabilità? Insomma, le notizie sono moltissime e vi lascio spazio per riflettere, e intanto vi anticipo anche che abbiamo una specie di suspense per questa puntata, perché l'ospite misterioso, che non vi rivelerò fino a che non ci sarà, ha avuto un grosso ritardo con l'aereo, tanto per cambiare, in Italia era un volo interno, e quindi potrebbe affacciarsi magari tra un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, vedremo. Intanto attendiamo e quindi mescoliamo un po' le carte oggi, e invece di presentarvi subito l'ospite, tra pochissimo anticiperemo un appuntamento, ma vi volevo anche ricordare che ieri 25 novembre È stata la giornata mondiale per combattere la violenza contro le donne, e ci sono dei dati spaventosi che si ricordano sempre una volta all'anno, come al solito poi il giorno dopo ci si dimentica. Pensate che nel mondo e in Europa, quindi anche nel civile occidente, la prima causa di morte per le donne non sono i tumori, non sono le malattie cardiovascolari, non sono gli incidenti. La prima causa di morte per le donne nel mondo è la violenza degli uomini sulle donne. E non c'è bisogno di andare in Afghanistan per vedere che dopo 10 anni dalla cacciata dei talebani le violenze su donne e bambine sono ancora le stesse, o andare in Bangladesh, in Nepal, in Pakistan per vederle sfregiate con gli acidi perché magari hanno rifiutato un corteggiatore o magari hanno risposto male al marito. In Italia basta anche semplicemente rifarsi ai dati italiani, i dati Istat: ogni 2-3 giorni una donna viene uccisa dal partner nella civilissima Italia, ogni 2-3 giorni, un femminicidio costante. Però vi dicevo, prima di sentire tra poco Luigi da Milano all'800 24 00 24, andiamo con un appuntamento che di solito è verso la fine, ma qui già ci può aprire invece già un discorso, un argomento piuttosto succulento. È la nostra Valeria della Valle. Cara Valeria, eccomi. Una sicurezza e una garanzia, Valeria. Sono pronta. Valeria della Valle, linguista della Sapienza di Roma, che ormai conoscete da tanto tempo, alla quale vorrei sottoporre, sempre tramite, diciamo, termine di cui fare l'esegesi, l'interpretazione, anche un argomento che sottopongo invece a voi, che è quello dei vitalizi, il vitalizio, no? Ne parlava oggi, questi giorni, ieri in particolare, il Fatto, che sembrava molto adirato sul fatto dei vitalizi. Sapete, questo, così si chiama, queste pensioni che maturano molto in breve tempo, con pochi contributi, i parlamentari che hanno fatto tanto discutere sui costi della politica negli ultimi mesi. E dopo Montecitorio, quindi dopo la Camera, anche il Senato con Schifani ha deciso che si farà a meno di questi vitalizi, che quantomeno cambieranno le regole, ma dalla prossima legislatura. Quindi quelli che ci sono dentro si assicurano una loro uscita felice e agiata, e poi si vedrà per quelli che verranno. Insomma, una specie di presa in giro. Vogliamo concentrarci sul termine vitalizio, Valeria? Come no. Allora, la parola vitalizio intanto deriva dal latino medievale vitalicium, e all'origine era un aggettivo, e l'aggettivo significava vitalizio, dico nella lingua italiana, significava che dura per tutta la vita della persona che ne è titolare. E quindi ecco che nel corso del tempo, ma non prestissimo, perché la parola ha cominciato a diffondersi tra il 600 e il 700, ecco che si sono diffuse le espressioni incarico vitalizio, rendita vitalizia, assegno vitalizio. Poi la parola è passata, è diventata un sostantivo, e quindi ecco che il significato è quello di assegno corrisposto, somma corrisposta per tutta la vita. Ora, la parola è di grande attualità, come tu ricordavi, in questi giorni, a proposito dei cambiamenti ventilati nel futuro, a proposito del vitalizio dei parlamentari. Ecco, vorrei chiudere solo con una osservazione, e cioè che in ambito giornalistico, anche se facciamo una ricerca proprio in un motore di ricerca, è molto più diffusa, per indicare la cosa di cui stiamo parlando, l'espressione pensioni d'oro. E direi che forse in questo caso va detto che l'espressione pensioni d'oro rende immediatamente più comprensibile a un pubblico vasto di che cosa stiamo parlando e che cosa sono i vitalizi concessi ai parlamentari. Grazie Valeria Della Valle. Ci ha fatto venire, oltre alle pensioni d'oro, anche un attacco di bile verde, diciamo. Ma su queste cose mi concentrerò in una delle prossime puntate, magari sotto Natale, in una puntata monografica. Adesso invece andiamo con le vostre notizie della settimana. Cominciamo da Luigi da Milano. Caro Luigi. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Io volevo solo fare una piccola considerazione sulle polemiche quanto riguarda la capacità di questo governo transitorio di attuare governo transitorio, ancora una formula che non avevo sentito finora, siccome stavo elencando nei varie puntate tutte le formule che perché governo non transitorio. Si sa quanto dura questo governo, se due mesi, un anno, fino alla prossima legislazione. Infatti, che andrà poi alle votazioni. Comunque, 2013. Piccola considerazione: se nella prima repubblica e neanche nella seconda siamo riusciti a fare, con tutto il tempo che ne necessitava, le riforme necessarie per dare una spinta a questo nostro paese, non si può pretendere che adesso il signor Monti, il professor Monti, riesca in un lasso di tempo, non si sa ancora quale, a risanare una situazione ormai incancrenita. Quindi, come dicono giù, ogni cosa vuole il suo tempo, e per fare le cose bene il tempo necessario è quello che gli riterrà opportuno. Questa è solo una mia piccola considerazione. Quindi le polemiche che girano intorno, che è lento, preferisco una persona lenta che però si assaggia e pensi, che piuttosto fare le azzeccagarbuglie e combinare un altro pastrocchio. Questa è la mia considerazione. Senti Luigi, a proposito di considerazioni, un argomento che ha avuto un grande successo, diciamo, di pubblico, di interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Tu Luigi sei iscritto per caso? No, io non sono iscritto a nessun social network perché non ho il tempo di poter collegarmi e devo dedicarlo alla famiglia perché ho un bambino disabile. Ah, ho capito Luigi. Senti, invece volevo chiederti però questa cosa, perché l'argomento, ti dicevo, insomma, ha avuto una serie di interventi, tante opinioni diverse. Tu sai che Napolitano, presidente della Repubblica, in questi giorni è ritornato, c'è stata un'occasione particolare per cui è ritornato sull'argomento dell'immigrazione e della cittadinanza agli immigrati, in particolare ai bambini. Lui ha detto: mi pare veramente una follia che non si dia automaticamente la cittadinanza ai bambini di cittadini stranieri che nascono sul nostro suolo. E è intervenuta la Lega, in particolare Maroni, che ha detto: così si stravolge la carta costituzionale. L'idea di dare cittadinanza a chiunque nasca in Italia, dice, uno stravolgimento, insomma, della nostra Costituzione. Tu cosa ne pensi? Ma a riguardo, io, per me sono tutti immigrati le persone che lasciano il proprio paese, la propria terra, per andare a lavorare altrove. Quindi, come l'abbiamo fatto noi in passato, in futuro e in presente lo fanno anche altri. Io ritengo che qualsiasi individuo ha gli stessi miei diritti se viene qua per contribuire a quello che è la richiesta della società. Quindi, come ho gli affetti io per mio figlio, li può avere lui, come mi nutro e vivo io, lo fa benissimo anche lui. Quindi per me tutti gli individui sono uguali a prescindere. Quindi tu daresti la cittadinanza automaticamente? Io certamente, perché sennò non si capisce perché quando noi siamo immigrati dovevamo tribulare per poter stare in un'altra terra, poter lavorare e avere dei diritti riconosciuti. Quindi se abbiamo lottato noi per averli quando siamo immigrati, è anche giusto darli a chi emigra nel nostro paese. Luigi, ti ringrazio, abbraccio tuo figlio da parte mia, Luigi. E poi sentiamo anche che cosa le altre ascoltatrici e ascoltatori pensano, per esempio, di questo argomento. Qualcuno dice ma era il momento di tirarlo fuori, però evidentemente ha mobilitato molto le coscienze in un senso o nell'altro, è sempre un argomento molto sentito. Però le vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24 sono tra poco di Alessandro da Vicenza, Stefania da Roma, ma vi dicevo, volevo dare un'occhiata anche a tutti gli interventi che ci sono stati su Facebook sull'argomento, in particolare appunto della cittadinanza ai bambini di genitori stranieri nati in Italia. Andiamo a vedere, perché mi ero proprio stampata tutti gli interventi, non so se riesco a dare spazio a tutti. Però Max, per esempio, dice: dove nasci sei cittadino, questo in tutto il mondo. Non è proprio così, però insomma è un bel auspicio. Corrado dice che sarebbe sacrosanto passare allo ius loci, volevo fare il colto, nel senso appunto quella formula latina per dire, insomma, il diritto quando sei sul territorio, quando nasci sul territorio hai diritto alla cittadinanza. Maroni, pensi alla sua Padania, quel luogo irreale dove dovremmo rinchiudere lui e tutti gli altri. Adriano dice: forse parla della Costituzione padana, Maroni, che fa riferimento ai Celti. E poi Lucia: e da quando in qua la Costituzione è così importante per costoro? Si riferisce, diciamo, un po' così ai leghisti. Francesco: ma Maroni cos'è? Non era padano, ora di nuovo un italiano? Luca scrive: Roberta, senza alcun dubbio sono d'accordo col presidente Napolitano. Alessio scrive: tutti i bimbi nati in Italia hanno diritto alla cittadinanza, secondo me. Chiara dice: se posso dire la mia, sarebbe meglio che lo stesso principio valesse per tutti gli stati, almeno in Europa, Svizzera compresa, anche se sono di fatto extracomunitari. Poi ci sono moltissimi altri interventi. Daniele dice: ma stiamo scherzando, la cittadinanza data a chiunque nasca sul patrio suolo è cosa praticata da quegli imperialisti degli statunitensi. Ora qui c'è qualcuno che vuol far l'americano, ma Maroni la Costituzione l'avrà mai letta? Insomma, fa un po' l'ironico. E tanti altri interventi su questo tema, che evidentemente appunto è un tema caldo. Sentiamo Stefania da Roma. Pronto? Pronto? Stefania, sono qua. Sono qua, eccomi qua. Volevo parlare un attimo sulla questione precedente, questa del questo primo governo cosiddetto tecnico. Sì. che un signore, un ascoltatore, ha definito transitorio perché deve essere giovane, cosa che non sono io. In realtà sarebbe un governo balneare o ponte, come si diceva una volta. Anche se è un inverno, diciamo. Ecco, adesso non lo diciamo, però insomma è evidente, mi pare, no? Tutto si è arenato al momento di scegliere le persone che sono poi preposte all'attività, così, all'attività quotidiana, che è meno brillante, non finisce a Bruxelles, ma è quella che poi porta... Traduciamo, Stefania, dicendo, scusa se ti interrompo, per i sottosegretari, no? Perché su questo sì, esatto. Monti e il suo governo si devono consultare con i leader dei maggiori esatto. partiti, e qui... Allora, sono consultati sotto l'ombra paternale di Gianni Letta, e va bene, per carità. Però poi dopo ho notato che sono rispuntati fuori dei nomi da Emanuele Cencelli, che sarebbe stato opportuno, soprattutto... In certi democristiano campi, di una volta, sì. Leggo di nuovo D'Onofrio, Angelo Sanza, questo per Casini, poi Martuscello da un'altra parte. So, qui stiamo riciclando praticamente al secondo livello quello che prima si diceva: è finito, finisce Berlusconi e finisce tutto questo trantrano. Invece mi sembra di no, che purtroppo ci sia un peso che ci portiamo che rischia di affondarci, perché poi la vita di tutti i giorni è gestita da queste persone. Stefania, non scusami, dei delitti sulle spalle, ma sarebbe meglio che andassero ai bagni termali. Ecco, questa è la mia opinione. A proposito di governo balneare. Senti, ma quello che ti contraria, Stefania, è il fatto che si siano un po' impallati su queste discussioni di Emanuele Cencelli, appunto, no, Emanuele che prevedeva di Cencelli divisioni eque, un po' a te, un po' a me, la percentuale tal partito e l'altra percentuale. È questo che ti scoccia, che la situazione è un po' di stallo, oppure che ci sono sempre i soliti nomi dei soliti noti? Ma è una conseguenza, è una conseguenza, perché se guardiamo i meccanismi di tre quarti del mondo civile, diciamo, quando un primo ministro ha un incarico, in 24 ore snocciola tutto, ministri, vice, eccetera. Evidentemente Monti oramai si è bloccato, purtroppo, su un sistema che pensavamo che lui almeno avrebbe potuto superare. Ha un'equipe a alto livello più che presentabile, poi ripiombiamo invece per quello che riguarda le cose di tutti i giorni, che ripeto sono quelle che sostentano i partiti, ripiombiamo nel vecchio sistema. Ma vorrei dare un esempio per tutti che mi ha lasciato stupefatta. Sì. Quando c'è stata la questione dell'antitrust, tutti i giornali hanno sottolineato che se erano contrari alla nomina di, mi pare, Pitruzzella, che è presidente dell'antitrust, era perché è vicino, tra virgolette, a Schifani. Ora, a me, sinceramente, più che il fatto che è vicino a Schifani, che non sono in grado né voglio giudicare né Pitruzzella con le sue amicizie né Schifani, non è un discorso comunque sempre politico, non è la risposta pertinente, nel senso che ci sono 180 economisti che hanno scritto chiaro e tondo che per l'antitrust, che il termine trust è un termine prevalentemente cioè antimonopolio, diciamo, ecco, l'autorità, esatto, che deve controllare, monopolio, che non sono monopoli. Suppone Fininvest, suppone Eni, suppone molte cose. Allora, quando si parla di monopolio, si parla di economia, mi sembrava giusto che ben 180 esperti del settore fossero ascoltati. Invece negli stessi giornali si è segnalato soprattutto il fatto di Schifani, vabbè, è tutto quello che volete, però in realtà il finale è stato che è passata una persona che non ha nessuna nozione di economia. Stefania, posso chiederti di cosa ti occupi nella vita? Ogni 20 anni cambio occupazione. Però non ti annoi mai, sarebbe una cosa Ho cominciato come giornalista e ho cambiato settori. E poi dopo mi sono ritornata sulle mie orme giovanili e adesso mi occupo di arte contemporanea del centro Europa. Parliamo di arte contemporanea della Polonia, della Germania, dell'Ungheria, eccetera. Però certo, ogni tanto... Una cosa un po' di nicchia, almeno rispetto, diciamo, a gusti così di massa. Un po' di nicchia per la maggior parte, non so quanti conoscono l'arte polacca, per esempio. Diciamo che è di nicchia in Italia, perché anche qui la politica ha avuto la sua zampa. L'Italia è vissuta sempre sul contemporaneo anglosassone, c'era una grossa spartizione all'epoca, no? L'Italia si occupava della parte anglo-americana e poi altri paesi come la Francia, prevalentemente la Francia, si è sempre occupata invece di guardare anche per esempio i profughi che venivano dal cosiddetto est, quindi è una tradizione che si mantiene. Però devo dire che la Germania, oggi come oggi, e la Francia mantengono... Sono un po' più d'avanguardia. Senti, mantengono Stefania, rapporti culturali con questi paesi. Volevo farti un'altra domanda su un altro fatto di questa settimana, che riguarda, diciamo così, usiamo un eufemismo, il buon gusto, no? In realtà ci sono dietro tante altre cose, sofferenza, senso di tradimento, di ingiustizia, eccetera, eccetera. Non so se hai sentito che Ti ricordi il delitto di Marta Russo, no? Una cosa che aveva colpito molto l'Università La Sapienza di Roma. Scattone, uno di due considerati responsabili, in modo omicidio colposo, l'avevano ritenuto i giudici, non volontario, che avevano fatto partire questo colpo da una pistola che tenevano lì appoggiata sulla finestra con un suo collega di allora. Bene, adesso di questi giorni la notizia è che lui insegna nel liceo Cavour di Roma, dove aveva studiato la povera Marta Russo, che poi da lui è stata uccisa insieme. Lui si era fatto, poi era stato condannato a 5 anni e diversi mesi. Adesso lui insegna come professore in questo liceo e la madre di Marta Russo, insomma, comprensibilmente dice: beh, a parte che avrà diritto pure a guadagnarsi la pagnotta, ma non ha i titoli per fare l'educatore, soprattutto poi nel liceo dove c'era mia figlia, la sua memoria, eccetera. Che ne pensi, certo, molto brevemente? Che ne, come, pensi? Che ne pensi di questa situazione? Penso innanzitutto avrei voluto avere qualche dato in più, e cioè lo sapeva chi l'ha destinato in quel liceo? Come lo sapeva, lo sapeva, lo sapeva. Lo sapeva? Sì, il preside lo sapeva. Perché lo sapeva, e quindi è un, come possiamo dire, una persona estremamente ambiziosa di apparire, a mio avviso, perché è talmente madornale fare una cosa simile sapendolo, che decido da me che lo deve aver fatto per scrivere sui giornali. E guarda che le cose purtroppo sono molto più semplici di quello che uno pensi. Io, a proposito di questo, di questa storia di Scattone, mi restano invece quelle famose notizie che appaiono un secondo e poi svaniscono dell'epoca. Dopo 3 o 4 giorni apparve la notizia, non so se sia vera, che il padre della povera ragazza aveva avuto un lavoro, un'occupazione o d'altro con i servizi. Stessa cosa che si disse a suo tempo del padre della giovanissima scomparsa, che oramai penso che, non so se si avranno mai notizie. Sì, nel Vaticano, dici. Sì, adesso... Esatto. Quindi voglio dire, da parte del preside lo trovo una vanità incredibile, come quello che fa le dichiarazioni. Può essere una lettura questa. Stefania, ti ringrazio moltissimo, grazie. Ti devo ringraziare di una cosa. Di cosa? Che dopo 5-6 mesi che cerco di dire qualcosa alla Zanzara, ho scoperto che in realtà il tuo collega non chiama mai le donne. Ho fatto una mia statistica personale. Ma cosa, non so, magari sulle donne che non chiamano lui. Comunque non lo so, no, non sono presente, non posso dire. Grazie mille, buon lavoro. Grazie Stefania, grazie. Adesso invece sapete che questa è l'unica trasmissione in tutto il mondo, tutto il pianeta, che ha anche un collegamento per avere diversi punti di vista da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Si nota anche da quassù, da Marte, sempre osservando il globo terracqueo con il telescopio, che le cose cambiano laggiù sulla Terra. Prendiamo per esempio gli slogan italici d'un tempo e quelli di oggi. Un tempo si diceva meno tasse per tutti, ora si dice modello pomigliano per tutti. E come cambiano i tempi? Una volta nel Parlamento italico i fotografi potevano zoomare al loro piacimento, cogliendo le più piccole parole vergate nei pizzini amorevoli che si scambiavano i parlamentari, mettendo a fuoco persino il numero esatto, con scarso margine di errore, dei peli del naso di Scilipoti, degli sbadigli più primordiali, riuscendo anche a immortalare deputati e senatori che nelle noiose discussioni sul bilancio dello Stato si aggrappavano all'iPad in cerca di un po' di innocua evasione sui siti erotici. Ora invece la camera diviene, come si può dire, una camera oscura, e ai fotografi verrà anche chiesto di firmare una clausola che li impegna a non usare i loro potenti obiettivi per cogliere deputati o ministri in atti e comportamenti, questa è la dicitura, non essenziali per l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari. Insomma, addio Zoom. Le cose insomma cambiano a ogni livello, e se prima gli eroi che correvano a salvare città e nazioni in difficoltà avevano tute aderentissime, avete presente quelle tute, una seconda pelle, e mantelli svolazzanti, ora questi eroi sono meno fisici ma forse altrettanto potenti. C'è un tipo infatti che potrebbe aggirarsi per l'Europa e dire una cosa del tipo: il mio nome è Bond, Eurobond. Torniamo subito con i piedi per terra in modo da andare immediatamente ai vostri interventi, alle vostre telefonate. E sentirei all'800 24 0024 da Vicenza Alessandro. Pronto? Sì, pronto. Alessandro, sì. Sì. Sì. Salve, grazie a lei e a chi mi ascolta, e grazie a lei perché è bravissima nel condurre queste trasmissioni radio. Alessandro, forse la più brava di Radio 24. Caspita, Alessandro, solo di Radio 24, Alessandro. Io ascolto molto Radio 24 e ascolto anche altre radio, però devo farle i miei complimenti. Grazie Alessandro, io non voglio contrariarti in modo più assoluto perché sarebbe maleducato. Comunque, ti ringrazio Alessandro. Dimmi qual è la tua notizia della settimana e cosa stai facendo, che ti sento molto mobile in questo momento. Mi senti molto mobile? Hai l'auricolare? No, sono in al telefono tranquillamente. Ah. E niente, allora, una piccola osservazione che vorrei dire intanto sui discorsi immigrati, sulla cittadinanza. Mm. Bene, allora, secondo me, tanto per fare un po' di pulizia, e rispetto anche delle civiltà altrui, potrebbero essere presi in voce come cittadini italiani i figli degli immigrati che per 10 anni almeno di residenza in Italia hanno lavorato e si sono comportati correttamente. Mm. Cioè tu dici poniamo questa clausola, prima di dare il diritto ai bambini nati da cittadini stranieri in Italia, aspettiamo che i loro genitori stiano nel nostro paese per una decina d'anni e che abbiano la fedina penale pulita, questo vuoi dire? Che siano a posto, anche per fare una pulizia, perché altrimenti non sappiamo qua chi viene di qua. Il sangue e la matrice genetica si trasmette anche attraverso il sangue, modi di vivere non poco puliti che hanno alcuni. Alessandro, attraverso il sangue non voglio essere frainteso. Voglio essere frainteso, ben chiaro. Io lavoro moltissimo devo ringraziare gli extracomunitari perché io lavoro moltissimo con loro. Tu questo sei un piccolo imprenditore? Esatto. E se il nostro settore va avanti è grazie a loro. E loro grazie a noi riescono ad avere dei vantaggi, dei benefici. Quindi diciamo è un beneficio reciproco. È un beneficio reciproco, ecco. Questa è la mia prima impressione. Veramente, se i genitori si sono comportati bene, è giusto che i figli abbiano questa opportunità di vivere bene. Deve essere anche uno stimolo, bisogna guadagnarsene la pagnotta, non ricevere tutto quanto per diritto. Alessandro, è chiarissima la tua posizione, può essere questa una possibile proposta così da lanciare lì alle altre ascoltatrici e ascoltatori, cosa ne pensano? Tra l'altro volevo precisare che lo ius soli, cioè la possibilità di avere la cittadinanza perché su quel territorio sei nato e vissuto, in realtà in Italia c'è, ma bisogna aspettare il 18° anno, quindi quando si diventa maggiorenni. La richiesta di Napolitano era invece di fare una riforma di questa legge e di decidere che subito dalla nascita, quando si nasce sul territorio italiano, si diventa automaticamente cittadini italiani. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, anche per le altre notizie, mentre Alessandro Balia continua a prendere a questo numero centinaia e centinaia di telefonate. Sentirei ancora al numero verde Arben da Treviso. Arben, sì, bel buongiorno. Nome Arben, ciao Arben. Buongiorno. Questo nome da dove viene? Non ha un significato, in Albania non ha un significato. E sei albanese? Il nome, sì. Però cioè, è un bel nome, mi piace. Che cosa mi racconti, Arben? Niente, io non sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda la cittadinanza, che uno lo deve prendere appena arriva. Ah! Voglio dire perché io ho sofferto, cioè non ho sofferto, ma ho aspettato 14 anni praticamente prima di prendere la cittadinanza. E tu da quanti anni sei? Da 14 o da di più adesso? Adesso 20 anni. 20 anni, quindi dopo 14 anni hai avuto la cittadinanza? Sì. Però non mi sembra giusto che uno... appena nasce un bambino di un straniero diventi immediatamente cittadino italiano, anche perché dopo quella crea una precedente che sono quasi convinto che sarà una mezza invasione di gente, di donne che arriva qua al nono mese, tutti partoriscono per diventare italiani. Non mi sembra giusto. Ma insomma, adesso che le donne straniere stiano a calibrare esattamente la gravidanza per arrivare pac sul suolo da scodellare lì mentre arrivano, mi sembra un po' Arben. Però la cosa che trovo curiosa, sei sempre in ascolto, Arben? Sì, la cosa che trovo interessante, diciamo, particolare, che proprio tu, che sei stato fino a qualche tempo fa cittadino straniero, comunque originario dell'Albania, tu abbia questa remora. Come mai? Paura? Anche perché un'altra cosa, se proprio vogliamo, allora dobbiamo dire, ok, diventi cittadino italiano, però dopo di essere qui almeno 2-3 anni, cioè no, uno arriva, partorisce, diventa italiano e dopo se va al suo paese, che può essere Albania, Jugoslavia, cioè può essere qualsiasi paese, non deve essere immediato quello che dico io. Cioè tu dici bisogna conquistarselo, questo è il concetto di fondo. Perfetto, non è giusto neanche come ho fatto io, 14 anni. Tra virgolette aspettato. Dimmi il tempo che secondo te è accettabile e opportuno per avere la cittadinanza. Sì, almeno un 2-3 anni, che anni. Uno che vuole vivere in Italia, credo io comunque, dopo posso sbagliarmi. Mi viene in mente Arben, che un esponente della Lega nei giorni scorsi, adesso forse non mi ricordo esattamente chi, aveva proposto un referendum consultivo in Italia su questa cosa, quindi non per abrogare o cambiare qualche legge, consultivo per sentire un po' gli italiani cosa ne pensano. Tu saresti favorevole a una cosa del genere? Sì, perfetto, mi piace questa. Così almeno gli italiani decidono cosa è giusto, insomma, quello che è giusto. Secondo me non è giusto che uno diventi automaticamente quello che dico io, dopo un po' di tempo, un anno, 2-3, è da stabilire, però che diventi automaticamente perché è nato qui, non mi sembra giusto, è quello che dicevo prima. Chiarissimo, Arben, dimmi che lavoro fai, se posso saperlo. Pizzaiolo, caspita, sì. Mi ingolosisci, ti piace fare le pizze? Sì, è da anni che lo faccio. Bravo, mettici tanta passione, grazie Arben, grazie, buona voi, continuazione. Grazie. E adesso forse diciamo sorpresa, diciamo a 20 minuti dalla fine della trasmissione, volete sapere chi è l'opinionista estemporaneo di oggi, signore e signori? Francesco Verderami, che se l'avessi davanti a me in questo momento lo farei diventare un po' più verde di certi rami in primavera. Che dici, Francesco? Io mi scuso con voi, sono ancora sull'aereo, ma purtroppo... Guarda che ti buttano giù, ti buttano giù se parli al cellulare. Altrimenti già ho fatto una scortesia nei vostri confronti, anche se involontaria, perché non guido io l'aereo. I ritardi non li provoco io. Scusa, al pilota potete dire: scusi, si sposti un attimo che magari io vado più veloce, no? Mi dispiace, mi impegno la prossima volta, sperando di essere nuovamente invitato da voi, di restare fermo a casa, immobile. Francesco, ti inviterò di nuovo. Grazie. Nel nuovo anno. Scusatemi di nuovo. Se tu fai buoni propositi di diventare più buono tra il passaggio tra 2011-2012, io ti invito senz'altro all'inizio del 2012. Facciamo lo stesso. La prima puntata con te, ecco, capirai. Francesco Verderami, infatti, editorialista del Corriere della Sera, proprio oggi c'è un suo editoriale sul governo Monti, però ti volevo fare una domanda cruciale, una domanda che mi è rimasta qua in questa settimana. Allora, Francesco, intanto stai attento che non ti spellino con quella specie di seggiolino dall'aereo. Sto lasciando sfilare tutti i passeggeri. Siete atterrati. Dove siete atterrati? A Palermo. Palermo. Il problema è il traffico sempre a Palermo, no? Mi pare di ricordare. Vabbè, comunque, Francesco, ti volevo chiedere, tu sei impressionato? Sono impressionato da molte cose, sono impressionato dalla faciloneria con la quale stiamo affrontando questa crisi. Ecco, ma quello che ti volevo chiedere è, non so se ci dobbiamo preoccupare, no? Perché i titoli dei giorni scorsi, sui siti, sui giornali, eccetera, erano Merkel e Sarkozy impressionati dalle riforme di Monti. Io mi sono impressionata da sola, perché Dio, che cosa prevede? Come quando qualcuno esce dal cinema che ha visto un film dell'orrore, tu lo guardi in faccia perché tu stai entrando, vediamo se è impressionato, una cosa che fa paura. Io sono un po' preoccupata, perché sono impressionato? Ma l'Italia è abituata nei momenti di difficoltà a saper dare il meglio o anche a volte il peggio di sé. In certi casi, nella maggior parte dei casi, smettiamola di autoflagellarci, di dare il meglio di noi stessi. Abbiamo saputo recuperare rispetto alla caduta del sistema monetario europeo nel 92. Siamo riusciti ad entrare nell'euro e non dalla porta di servizio. Adesso siamo di fronte a una difficoltà che non è solo nostra, anzi che non è nostra, diciamolo. E quei due signori, quella signora e quel signore che ridevano dell'ex presidente del Consiglio italiano, che ha molte colpe, a suo carico, forse facevano meglio a non ridere, perché sono loro la causa principale di questo disastro, soprattutto la Germania. Per cui perché dici la Germania? Impressionati tutti quanti. Senti, prima c'è stato un collegamento da Marte, la marziana è proprio l'unica trasmissione al mondo che ha proprio, anche per avere diversi punti di vista, anche un collegamento con Marte. Questa marziana parlava di un eroe che potrebbe aggirarsi a breve in Europa, che dice di chiamarsi Bond, Eurobond. Non li vuole la Germania, non li vuole. Se non lo capiamo, è la Germania, e la Germania è colei che praticamente detta le regole nel sistema europeo, vista la sua forza, e non c'è la capacità, né tantomeno ce l'ha il nostro governo, per quanto autorevole possa essere la personalità che ora lo presiede. Nessuno ha questa possibilità. Leggevo oggi sul Foglio, peraltro, a proposito di corsi e ricorsi storici, come nel 92, è veramente bella la storia in questo senso, a volte abbiamo la memoria corta, quella volta nel 92 che la Bundesbank decise di mandare gambe all'aria la sterlina inglese e la lira italiana per salvare i francesi. Vi ricorda qualcosa? Quindi ho capito, Francesco Verderami, che il colpevole in questa situazione non è il maggiordomo, ma è la Germania. Quindi un colpevole ce l'abbiamo. No, ma siamo tutti colpevoli, naturalmente. Quando dicevo che dovremmo essere tutti impressionati, ognuno, sì, io sono molto impressionato, ha le proprie, ognuno di noi ha delle responsabilità. L'Italia ha responsabilità di non aver affrontato riforme strutturali di cui il paese aveva bisogno, che il centrodestra aveva promesso in più occasioni, e soprattutto questa nel corso dell'ultima campagna elettorale, e con una maggioranza, la più grande maggioranza che la storia repubblicana abbia mai concesso a una coalizione, non ha fatto quello che doveva fare, cioè le riforme. Dall'altra parte abbiamo un sistema europeo che si regge su una moneta che non ha una bandiera da sventolare né un inno da suonare, e abbiamo quindi non un interesse europeo ma interessi nazionali. Se ce lo mettessimo in testa una volta per tutte, quindi non scaricheremmo le colpe né su uno né sull'altro. Francesco, diciamo, fammi un favore, scusami, siccome tanti ignorano cosa sia l'Eurobond, che non è la versione moderna di James Bond, lo spiegheresti in due parole? Sì, praticamente la banca centrale europea si dovrebbe fare prestatrice di ultima istanza. Mm. Cioè, e quindi, come per esempio fa, sto scendendo. Arrivederci. Attenzione alla scaletta, mi raccomando. Come per esempio fa la Federal Reserve, ecco, in questo caso. Banca centrale americana. Però questo non succede, perché la Germania anche ha le sue ragioni, cioè i tedeschi che fanno le formichine non vogliono accollarsi i debiti degli altri, hanno la loro parte di ragione. Comprensibilmente, allora, diciamo, per certi versi, perché abbiamo fatto l'Unione Europea? Abbiamo fatto l'euro, abbiamo fatto l'euro perché era il pegno che la Germania doveva pagare alla riunificazione, e come vedete quindi è un cane che si morde la coda, quindi non se ne esce. Senti, mentre tu invece esci dall'aereo, allora sentiamo ancora alcune ascoltatrici e ascoltatori, tanti che stanno chiamando all'800 24 0024, guarda bene gli scalini. Luigi da Milano, abbiamo un secondo Luigi da Milano? Oggi? Sì, ce l'abbiamo. Doppio Luigi da Milano. Luigi, non sei quello di prima che camuffa la voce, no? No. Bene, sentiamo. Sono io. Sei proprio tu, sì. Sì. Buonasera Roberta, intanto grazie per essere sempre molto da stimolo. Per tanti argomenti. Ho sentito poc'anzi, no, le dichiarazioni di Maroni e lo stravolgimento della Costituzione. Sulla cittadinanza e i bimbi. Sulla cittadinanza, sì, è quello. Ma non capisco, sono anni che triturano dicendo che la Costituzione è vecchia, che proprio per il federalismo fiscale la Costituzione si può cambiare, ci sono dei meccanismi per cambiarla, adesso dicono che non si deve toccare. Cioè, questa gente qui vuole, non so, un mondo fatto tutto di Borghezio, di Calderoli, di Bossi, di Galan, di Cota. Cioè, a me piacerebbe, non so, guardare un po' avanti, guardare oltre, no, questi, te lo dico da terrone, questi terronismi, no, del provincialismo più esasperato, no, la Padania. Cioè, guardiamo avanti, un mondo fatto di musi rossi, di musi gialli, di musi neri, di musi anche bianchi, ma un mondo a colori. Quanti anni hai, Luigi, se posso chiedertelo senza essere maleducato? 41. E poi io, scusa, ma Ho sentito un po' anche l'intervento di quella signore di Vicenza, Alessandro, sì, che diceva che dopo 10 anni si potrebbe attribuire la cittadinanza, a parte il fatto che comunque negli Stati Uniti, per esempio, esiste, è vigente lo ius soli, no? A proposito del mondo a colori. Anche da noi, ma solo al 18° anno d'età. Sì, sì, infatti. Però, allora facciamo una cosa al contrario. Facciamo che dopo 10 anni di cittadini di cittadinanza italiana dei nostri bellissimi cittadini, quelli che sono tangentisti, corrotti, concussi, corruttori, ruffiani, usurati, gli cancelliamo la cittadinanza, e magari li mandiamo in un altro paese, non so quale, non so chi se li prende, però dopo dieci anni li mandiamo via. Cioè un ricambio, un turnover, sì, come si dice. Sì, perché no, sembra no che sempre da fuori viene lo schifo, ma se guardo intorno vedo tanti cittadini che se ne strafregano di tutto, che non pagano le tasse, che ti arrotano con la macchina se sei a piedi o in bicicletta, vedo proprio un senso civico pari a zero. Luigi, dei nostri cittadini. Ti ringrazio moltissimo di questo intervento, aspetto poi i tuoi commenti anche sulla pagina Facebook della trasmissione. E secondo te, Francesco, non so se hai sentito un po' mentre scendevi, avevo lanciato questo argomento dell'invito di Napolitano a fare una riforma sulla cittadinanza ai bambini, sì, nati in Italia da stranieri, tu come la pensi? No, io nel merito sono d'accordo, anche se bisogna fare molta attenzione a queste leggi che salvaguardano dei diritti dei futuri cittadini italiani. Se è possibile, però, contesto il metodo. Sì, in che senso? Il metodo perché purtroppo temo che queste sortite, se non vengono direttamente dal Parlamento, possono creare problemi in questa fase di passaggio, con una maggioranza molto fragile perché è molto eterogenea. Quindi è una questione di tempistica, secondo te, giusto, sì, per questo momento che stiamo vivendo? In questo momento dobbiamo gestire un'emergenza, che è l'emergenza economica, e dei provvedimenti da affrontare che saranno draconiani. Ma come concetto in sé? È un principio. No, come concetto in sé, sì, io sono d'accordo. Penso che insomma, i ragazzi che nascono sul suolo italiano e che fanno parte di famiglie che sono ormai da tempo, bisogna, ecco, anche in questo caso stare attenti a come regolamentare le famiglie che sono ormai regolarizzate, che hanno la residenza in Italia. Non vedo perché, e che questi ragazzini che parlano i dialetti molto meglio di noi, delle nostre parti, non so, parlano dialetti bergamasco o romano e si sentono. È vero, a volte sorrido perché vedo dei visi a cui non sono abituata ad attribuire un certo tipo di inflessione. Uno rimane, una volta forse rimaneva stupito, adesso non lo rimane più, ed è una bella cosa. Beh, bisogna stare attenti, bisogna regolamentare. Bisogna fare attenzione anche perché esperimenti di multiculturalismo, di melting pot e tante altre belle cose e di mondi colorati li abbiamo visti poi però fallire, come per esempio in Inghilterra, non ce ne dimentichiamo, ecco, perché poi il rischio è che si creino dei ghetti. E allora questa cosa diventa ancora peggiore. Quindi prendiamoci un po' più di tempo, intanto muoviamo verso un nuovo intervento che in realtà è ormai una consuetudine, con Maria Laura Rodotà, sempre del Corriere della Sera, commentatrice del quotidiano. Ciao, Maria Laura, Roberta. Che cosa ti ha colpito questa settimana, Maria Laura? Ma varie cose, stavo sentendo quel che diceva Francesco, sì, e stavo pensando che la provincia italiana più multietnica dal punto di vista proprio delle unioni miste è quella di Reggio Emilia, che è una zona che interessa molto ai governanti europei che si stanno occupando della nostra emergenza economica, come sai. Con grande sorpresa abbiamo letto che Olli Rehn conosce Don Camillo e Peppone e li ammira anche. E ha anche spiegato agli italiani che Don Camillo e Peppone sarebbero stati per Mario Monti. L'ha spiegato lui. Ha spiegato lui. Io ci ho pensato, l'avrebbero sicuramente appoggiato perché la Chiesa e il partito avrebbero così disposto. Poi avrebbero fatto qualche battutaccia. Dopodiché c'è una cosa importante da dire, che l'Italia di Don Camillo e Peppone non era solo un'Italia consociativa di chiese e partiti, era anche un'Italia capace di coesione e di solidarietà, quindi forse alla fine della fiera ha ragione Olli Rendi, dovremmo rivalutare anche noi. Bene, rivalutiamo allora Don Camillo e Peppone, grazie anche al fatto che ce l'ha sognato Maria Laura Rodotà. Grazie Maria Laura, salutaceli se dovessi incontrare sul tuo cammino. E prima di ritornare a Francesco vorrei sentire brevissimamente, se riesci a essere sintetica, Sandra, perdonami, mentre gli altri ascoltatori chiedo scusa perché siamo un po' di corsa. Sandra. Sono Sandra. Sì, è chiaro. E niente, sì. Io sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto. Aspettiamo un pochino e poi vediamo se i nostri bravi italiani, io detesto la Lega, se i nostri bravi italiani hanno fatto il loro dovere. Eventualmente li mandiamo via, ma sai dove li mandiamo? A quel paese. Ah, molto bene. Che se lo trovino. Grazie Sandra, grazie. Invece grazie. Ritornando a Francesco Verderami, insomma, di domande che ti volevo fare ce n'erano tantissime, poi ci risentiremo con più calma, dicevamo in un'altra puntata. Prometto che ti invito. Senti, invece, molto brevemente, sai, in Spagna ha vinto la destra di Rajoy, si pronuncia così, sì. No? E molti sono preoccupati, almeno quelli che avevano sostenuto le unioni tra persone dello stesso sesso, che possa rivedere questa legge. Secondo te è opportuno, brevemente, visto che siamo quasi in chiusura, è opportuno che si rivedano delle leggi su dei diritti civili acquisiti, che si possa ritornare indietro? Il rischio è che a forza di, come dire, fare delle forzature in un senso o nell'altro, non cercando una mediazione, un compromesso, ma cercando sempre la linea estrema, per effetto del pendolo che nella politica c'è sempre, appunto, rischiando appunto di passare da un estremo all'altro, si cancellino assieme a delle norme che io considero fin troppo radicali, però anche norme che rappresentano un segno di civiltà per la società ormai del nostro millennio. Quindi io mi auguro, insomma, che alcuni diritti vengano mantenuti, altri però, essendo io, avendo un convincimento mio personale, penso che la famiglia sia quella tradizionale, però appunto bisogna anche capire che esistono dei diritti che vanno tutelati, penso per esempio alle coppie di fatto, ecco, questi diritti vanno assolutamente tutelati, poi sul matrimonio gay onestamente non mi ci trovate, però sul diritto di una coppia sì. Anche se ti devo dire, Francesco, non vedo mai, perché ogni volta che si parla di diritti, se si allargano a qualcun altro, uno se li sente ristretti a sé, invece è semplicemente un aggiunge. No, questo infatti no. Parlo di diritti civili, parlo per esempio dell'assistenza. Questo per esempio è un principio, parlo della possibilità di avere beni in comune e che poi alla fine di una storia, magari perché uno dei compagni muore, non si venga considerati come un estraneo. Queste sono le cose che considero importanti. Francesco, cioè, senti, ma garantire dei diritti alle coppie di fatto. Regge questo governo o no? Sì o no? Sì o no? Regge ancora? Regge lungamente? Possiamo usare un paradosso. Io ritengo che così come il governo Berlusconi si reggeva su lo spread, questo governo, dopo la manovra economica, si reggerà anche lei sullo spread, cioè sarà lo spread a stabilire se questo governo potrà andare avanti o meno. Perché chi l'avrebbe detto? Che, perché poi chi di spread ferisce, magari di spread anche perisce, nel senso che così come lo spread ha mandato a casa, in fondo è stato un motore per mandare a casa il governo Berlusconi, dopo una manovra draconiana, così si preannuncia quella di Monti, se da gennaio lo spread dovesse continuare a tenersi così alto e i titoli di Stato comunque italiani dovessero essere piazzati sui mercati, stiamo chiudendo, Francesco, eccessivi, credo che naturalmente anche questo governo verrebbe licenziato. Francesco, vorrei chiedere se tu lanci palle di neve, perché a Ferrara è stato vietato, c'è stata tutta una rivoluzione lì in consiglio, in giunta eccetera, ma ne parliamo un'altra volta il prossimo anno quando ci sentiremo. Salutaci Palermo, caro Francesco Verderami, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.